falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Quante storie abbiamo raccontato di persone che sono arrivate a grandi livelli partendo da un'infanzia difficile, forse proprio perché erano partiti da un'infanzia difficile. E anche stavolta partiamo da un bambino iperattivo, però senza amici. Bene, un bambino che si conquista una fama internazionale come nuotatore. Questa è la storia di Michael Fred Phelps, che un giorno ha scoperto che l'acqua era il suo elemento naturale e che avrebbe trovato la sua realizzazione all'interno di una piscina. Ma cominciamo dagli inizi. Siamo nelle montagne americane tra Maryland e la Pennsylvania, siamo a Towson, nella contea di Baltimora. Qui nell'85 nasce Michael. I suoi genitori hanno già due figlie femmine, Hillary e Whitney, sono felici perché finalmente è arrivato un maschietto, però la madre si accorge che il figlio è diverso dagli altri, è in continuo fermento, quelli che vengono definiti bambini ipercinetici, è sempre agitato, non riesce a fare amicizia. Lei lo aiuta, lo supporta, però nel frattempo, come avviene ormai da tutte le parti del mondo, particolarmente in America, i genitori si separano. Michael è alle elementari, non accoglie bene questa notizia e le maestre lo riprendono spesso, diventa ancora più solitario, anzi rissoso, non sta attento, i compagni non l'aiutano perché i bambini sono molto feroci quando sono piccoli, lo prendono in giro, anche perché ha delle orecchie grandi da sembrare un elefante, quindi ce lo immaginiamo a piangere negli spogliatoi della palestra, richiudendosi ancora di più in se stesso. Insomma, Michael Phelps è un ragazzino che ormai è diventato alto, magro, ma è molto pieno di problemi, problematico, tanto che la madre Debbie decide di parlarne con il pediatra, di affrontare di petto la situazione. Insomma, dopo 2 anni di visite, a 9 anni gli viene diagnosticato l'ADHD, cioè è un deficit dell'attenzione e del disordine della iperattività. A Michael viene prescritto il Ritalin, che è un farmaco per bambini iperattivi, è un farmaco molto contestato peraltro in Italia, però gli americani insomma pensano di risolvere tutto o coi farmaci o con le bombe. Nel tempo libero la mamma fa di tutto per farlo sfogare, per aiutarlo a trovare la concentrazione. Insomma, Michael è stato un bambino fortunato perché ha avuto accanto una madre, Debbie, che lo ha aiutato a incanalare la sua energia nell'attività sportiva. Prima gli ha fatto provare tutti gli sport e finalmente lui approda in piscina, dove le sorelle maggiori vanno ad allenarsi spesso. Michael diceva che aveva paura a mettere la faccia in acqua, così gli ho insegnato il dorso. E naturalmente l'attività fisica, il nuoto, l'impegnare le energie e canalizzarle verso uno scopo preciso hanno avuto un ruolo fondamentale nella guarigione di Michael, come ha spiegato di recente proprio mamma Phelps, Debbie, che ha capito quale fosse la medicina migliore per lui. Alle mamme che hanno bambini affetti dalla sindrome di ADD consiglio di compilare una lista delle cose da fare. Con Michael io attaccavo una lista di attività al frigorifero e gli facevo mettere degli adesivi sopra, man mano che aveva svolto i suoi compiti. Era un piacere aiutarlo a focalizzarsi e a crescere. I nuotatori devono sviluppare un'ottima capacità di gestione del tempo e i bambini affetti da ADD hanno bisogno di parametri. Per fare questo non c'è nulla di meglio che 2 belle corsie. Anche se la mente di Michael si distraeva, lui poteva focalizzarsi sull'andare avanti e indietro nella piscina. E poi non dobbiamo dimenticare che l'acqua stessa ha un potere estremamente calmante. Michael Phelps sta per guadagnarsi il soprannome di Baltimora Kid. Comincia ad andare forte, la piscina è un luogo sicuro dove poter trovare un equilibrio, quasi proprio dal punto di vista iconografico. I binari tracciati sul fondo, il percorso ripetitivo avanti e indietro lo aiutano a focalizzarsi, a trovare un baricentro, come racconta lui stesso nella sua biografia. Tutti sapevano, in particolare mia mamma, le mie sorelle e i miei allenatori, che io tutta quell'energia avrei dovuto tirarla fuori con gli sport. E così ho fatto baseball, calcio e nuoto. Ma ho scoperto presto, dopo aver iniziato a nuotare, che la piscina era un paradiso sicuro. Due lunghi muri ai lati, delle linee dritte fino in fondo e una striscia nera sul fondale per dare la direzione. Sarei potuto andare veloce e poi tornare indietro. Ho scoperto che la piscina rallentava la mia mente e nell'acqua mi sentivo per la prima volta in totale controllo di me stesso. Ai nuotatori piace dire che loro possono sentire l'acqua. E anch'io ho capito davvero cosa significa, perché anch'io mi sono sentito così. Non dovevo combattere nell'acqua. Io potevo sentire come mi muovevo e potevo decidere se andare più veloce o più piano. Quindi una situazione ripetitiva che può sembrare paranoica, ma che può invece portarti fino alle Olimpiadi, e l'acqua e la piscina diventano il suo nido. Lui, l'abbiamo detto più volte, è legatissimo alla madre, però un giorno, quando ha 11 anni, incontra un uomo che gli cambia la vita per sempre, che sostituirà la figura paterna ormai assente. È un completamento affettivo, ma soprattutto tecnico, di sua mamma Debbie. Quest'uomo è Bob Bauman, fa l'allenatore al North Baltimore Aquatic Center, e lui è a bordo piscina quando vede Michael nuotare, intuisce il suo potenziale enorme. Ho iniziato a nuotare quando ero ragazzino perché le mie due sorelle, sia Hillary che Whitney, erano due brave nuotatrici e io ero solo il fratello piccolino. Per tutti sembrava che Whitney fosse quella della famiglia che era destinata ad andare alle Olimpiadi. Ma non è andata così e alla fine ci sono andato io. Quel bambino viene salvato dal nuoto. Michael Phelps comincia intanto a eliminare il Rentalin e a non essere più semplicemente il bambino sedato, tipico, il bambino americano sedato. Diventa uno che sta per entrare nella storia. Accanto a lui c'è il suo allenatore Bob, che è una presenza fondamentale nel corso di tutta la sua vita. La sua filosofia è semplice: poniti un obiettivo elevato e lavora coscienziosamente ogni giorno per raggiungerlo. Quando ero molto giovane, Bob mi ha insegnato come annodare il nodo della cravatta dopo avermi fatto provare da solo per un quarto d'ora. E quando ero teenager, mi ha insegnato a guidare la sua macchina che aveva il cambio manuale, ed è così che ho imparato. Mi ricordo che un giorno stavo andando a scuola e c'era la strada in salita su una collina. Visto che c'era un incrocio, ho fermato la macchina e non riuscivo a ripartire e avevo molte macchine dietro di me. Eppure lui era lì con me e alla fine sono riuscito a ripartire. Insomma, quindi diciamo che il rapporto diventa simbiotico, perché se lui ci deve raccontare che è riuscito a far partire una macchina con le marce, vuol dire proprio che questo Bob è entrato prepotentemente nella sua vita, probabilmente al posto di questo padre che non c'è più. Sparisce il padre dalla sua vita, eppure Michael sostiene di avere tanti ricordi di suo padre. Mio papà Fred mi portava a pescare quando ero un ragazzino e mi ricordo che mi diceva di guardare sempre la gente negli occhi quando la incontravo e di stringerle la mano. Da bambino sono stato un bravo atleta anche come giocatore di calcio e ricordo che papà mi ripeteva che i bravi ragazzi finiscono sempre per secondi e che il tempo di essere amici è sempre dopo la gara, ma non durante. Quando si fa una competizione bisogna solo pensare a vincere. E devo dire che anche la madre non gli è da meno su questa idea un po' ossessiva della vittoria. Mia madre ci ha sempre detto che dovevamo avere obiettivi e determinazione e che avremmo dovuto lavorare duramente per raggiungerli. Lei chiama tutto questo comune buonsenso e per lei, cresciuta nel Maryland con un papà carpentiere e un nonno minatore, era davvero così. Insomma, si profila una classica storia americana, una insegnante che ha un forte senso dell'etica, che trasmette ai figli, che lavora, che vede la famiglia come una squadra, un team, tenacia, passione, etica, insomma la classica storia americana. Put the freak on this title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it slips like a song, she cries. Where above Papa's hero's gone. She wants a young America. Quindi siamo nel 2001, Michael ha poco più di 15 anni, non è ancora una superstar, però comincia a sognare. Un anno prima è riuscito a qualificarsi ai trials, la competizione che fanno in America per scegliere quelli che andranno alle Olimpiadi, nell'atletica, nel nuoto, in altre discipline. E peraltro si candida a essere il più giovane nuotatore statunitense che parteciperà ai giochi. A Sydney arriva in finale, conclude la sua prima avventura tra i grandi con un onorevolissimo, per essere uno di 15 anni, onorevolissimo quinto posto nei 200 metri farfalla. Ed ecco cosa risponde a un giornalista che gli chiede come fa a vivere come un normale teenager. Beh, non credo di avere una vita da normale teenager. Penso di aver rinunciato ad un sacco di cose, ma anche di aver guadagnato un sacco di altre cose che i normali quindicenni non hanno. Io ho un sogno e questa vita la amo di sicuro. Il suo sogno, anche se lui ha solo 15 anni, è preciso, è un sogno che diventa un obiettivo per il quale lavorare a lungo. È quello di andare alle Olimpiadi successive, quelle che si terranno ad Atene nel 2004, e cominciare a viverle da protagonista. Il mio obiettivo a lungo termine è vincere la medaglia d'oro ad Atene e poi vincerne altri. Ho molti altri obiettivi, ma questo è sicuramente il principale. Eh sì, perché la differenza tra uno sportivo e un altro, tra un nuotatore e un altro, è probabilmente nelle motivazioni, nella forza di volontà, forse all'interno di quella infanzia così complessa da bambino figlio di genitori separati, ipercinetico, forse è proprio lì che bisogna andare a cercare quella spinta che farà del nostro protagonista Michael Phelps probabilmente il più grande nuotatore di tutti i tempi. Stiamo raccontando la storia di Michael Fred Phelps, un bambino nato nel 1985, un bambino difficile che parte con dei genitori che si separano, lui iperattivo, viene salvato dal nuoto, la piscina è il suo nido da cui spicca quel volo di cui ogni giorno noi amiamo parlare. Michael Phelps, i suoi primi giochi olimpici sono quelli del 2000, l'anno seguente a 15 anni e 9 mesi batte il suo primo record mondiale, qualche mese dopo a 16 anni vince il suo primo titolo mondiale. Siamo a Fukuoka in Giappone e lui vince i 400 metri stile libero. E lui ha le idee chiare, vuole vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi e di sicuro in quella forza, in quella determinazione c'è lo zampino del suo mentore, del suo allenatore Bob Bauman. Campione si diventa con fatica e con tanta programmazione. Questo è quello che il coach gli ripete ossessivamente mentre lui macina vasche di piscina, 5 ore al giorno di allenamenti 6 giorni su 7. Il coach Bob Bauman al pubblico che oggi va a ascoltare le sue conferenze ripete sempre quanto sia importante la concentrazione, la forza di volontà, e durante le sue lezioni espone tutte le caratteristiche fondamentali per diventare campioni e avere successo. Ma tra tutte queste ce n'è una più importante, sentiamo quale. Most importantly, champions have a dream. La cosa più importante per i campioni è avere un sogno, perché è lì che inizia tutto. I campioni hanno la passione per seguire la loro visione di successo, la passione che li porterà a superare gli ostacoli, ad attraversare i momenti difficili, a eseguire prestazioni spettacolari nel corso della loro carriera. Avere un sogno è fondamentale, perché tutto comincia da un sogno. Non si tratta di qualcosa di tecnico, ma di qualcosa di emotivo. Nessuno si sveglia la mattina per tagliare il traguardo dei 200 metri in stile libero a 52.5. Beh, non è così eccitante. Ma qualcuno invece potrebbe volersi svegliare alla mattina per diventare il più grande campione olimpico di tutti i tempi. Sì, e il sogno di Michael, lo stavamo dicendo prima, era l'oro di Atene, e lui lo diceva con ingenuità ai giornalisti, lo ha scritto anche nel suo libro di memoria. È incredibile e ridicolo pensare che se non fosse stato per le mie due sorelle, probabilmente non avrei mai cominciato a nuotare, e che ero un bambino molto fragile, emozionale ed ero sempre molto agitato. Però avevo sempre lo stesso sogno. Volevo vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Una sola medaglia d'oro. E ho capito che vincere una medaglia olimpica era possibile, perché era successo ad una persona che conoscevo. Quando avevo 7 anni, Anita Noll, una nuotatrice di Baltimora, aveva vinto a soli 16 anni 3 medaglie, una d'oro, una d'argento e una di bronzo alle Olimpiadi del 1992 a Barcellona. Quando avevo 11 anni, un'altra nuotatrice di Baltimora vinse 2 medaglie d'oro ad Atlanta. E così le mie ambizioni olimpiche sono diventate sempre più reali. E questa tenacia lo premia, perché Phelps strabilia al mondo e alle Olimpiadi del 2004 a Atene colleziona 8 medaglie, 6 ori e 2 bronzi. E qui c'è la cronaca della sua ultima vasca con la vittoria dei 400 metri maschili che lascia tutti senza parole. 50 meters left here in the freestyle as he turns for home. He's gonna get the Olympic gold medal. Will he get a world record again? 4:08.41, more than 11,000 on their feet, cheering them on. Beck was still in third, and Che is a solid second right now. Well, the crowd's starting to feel it. He was less than a half a second under world record pace into 3:50. He's going to be very close. Insomma, un ingresso davvero protagonista, 19 anni, e seguono da queste le strepitose prestazioni di Pechino 4 anni dopo. A Pechino lui sbriciolerà record, confermandosi il più grande nuotatore di tutti i tempi. Panteone olimpionico bisogna lavorare sodo, e così e per lui gli allenamenti non si fermano mai, non ci sono domenica, non c'è Natale, si entra in piscina tutti i giorni per essere dei vincenti. Se vuoi essere il migliore, devi fare qualcosa che altre persone non vogliono fare. A quel punto avevamo pensato che ogni anno ci ritrovavamo ad avere 52 giorni in più di allenamento rispetto agli altri. Se perdi anche un solo giorno, ti ci vorrà il doppio per recuperare. Insomma, è la storia di una programmazione che sfiora l'ossessione. Pensate che il suo coach ha insegnato a Michael a scrivere su un biglietto di carta tutti i suoi obiettivi anno dopo anno. Per le Olimpiadi del 2008 di Pechino gli obiettivi sono 8, che peraltro è anche il numero portafortuna dei cinesi. La cerimonia, lo sapete, venne celebrata l'8 agosto alle 8. Comunque, gli 8 obiettivi sono 400 misti, 200 stile libero, 200 farfalla, 200 misti, 100 farfalla, più le 3 staffette, 4% per 200 libero e 4% misti. Michael inanella una serie di vittorie incredibili. Dopo aver vinto anche i 100 metri farfalla, raggiunge quota 7 medaglie d'oro come Mark Spitz. Appena uscito dalla vasca, ecco cosa dice a una giornalista. La cosa che mi ha veramente dato la carica è stato sentire la dichiarazione di Kavic prima della gara. Aveva detto che se io avessi perso per una volta, la cosa avrebbe fatto bene al mondo del nuoto. Beh, io mi sono detto, io ce la metto tutta e poi vediamo che succede. E quando ho visto il traguardo, wow, sono rimasto senza parole. E la giornalista gli chiede: ma credevi veramente di poter vincere 7 medaglie? Lui, ancora bagnato e emozionato, risponde così: penso di averlo sempre voluto nei miei sogni, pensando precisamente alle condizioni perfette nelle quali si sarebbe verificato. Ma se ci credi fino in fondo, ce la puoi davvero fare. Io penso che funzioni così. E poi è il momento dell'ottava medaglia d'oro. Qui essere americano è una fortuna, perché la ottava è nei 4% misti, quindi hai bisogno insomma di 3 compagni alla tua altezza, e Michael ce la fa anche questa volta. 408-41, Michael Phelps about ready to get his first Olympic medal. It's gonna be gold and it's gonna be a new world record. One down for Phelps. Vent gets the silver. And Chad gets the bronze. Così gli ori conquistati a Pechino diventano 8. Batte il record del mitico Mark Spitz, che nel 72 di ori ne aveva vinti 7 alle Olimpiadi di Monaco. Adesso lui non è più Baltimora Kid, è diventato lo squalo di Baltimora o il cannibale come Merckx nel ciclismo. Diventa un eroe, il re della piscina, il nuoto ai suoi piedi. Lui scriverà così: ai giochi olimpici è così. Anni di allenamento, di duro lavoro, di desiderio, di disciplina, racchiusi in pochi minuti, a volte addirittura a pochi secondi. Non c'è niente di più dolce della vittoria. E lui non si è fermato, è andato a Londra nel 2012, è riuscito a vincere ancora un oro e 2 bronzi. Insomma, le medaglie sono arrivate a 22, mai nessuno era riuscito a fare meglio alle Olimpiadi. E c'era stata una ginnasta sovietica, si chiamava Larisa Latinina, che tra gli anni 50 e 60 aveva raccolto 18 medaglie. Lui ha fatto ancora di più. A questo punto io avrei bisogno di essere aiutato da qualcuno che per forza di cose ne sa più di noi, anche perché questo signore era in quella vasca con Michael Phelps. Tra l'altro, la persona che sto per presentarvi detiene ancora oggi il record italiano dei 400 misti. Insomma, era in quella vasca dove Michael Phelps vinse una delle sue medaglie a Pechino e lui arrivò quinto. Sto parlando di Luca Marin. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti voi. Ti stavi allenando, ti abbiamo interrotto? No, oggi no. Ah, ma meno male, meno male. Per chi vede da fuori le imprese di voi nuotatori, naturalmente vede solo quei 400 metri e poi viene a sapere che dietro a quei 400, 200, 800 metri ci sono giornate e giornate passate andando avanti e indietro per una vasca, e poi c'è uno che arriva più avanti di un altro e c'è uno che vince tutto come Phelps. Ecco, secondo te la chiave è più nel fisico o nella testa per essere un gran nuotatore? Guarda, sicuramente il fisico fa da padrone, soprattutto quando si è grande, ci si forma e si entra nell'elite comunque del nuoto. Man mano più passa il tempo, bisogna anche la testa fa forse il 90%, perché comunque il nuoto è uno sport molto difficile, il nuoto è uno sport che porta tanti sacrifici, che non è comunque ripagato diciamo in Italia come tantissimi altri sport, quando invece certo, sicuramente noi facciamo molto più fatica rispetto ad altri, perché comunque sì, prepariamo, non gareggiamo ogni settimana, non è come un campionato che ogni settimana abbiamo una partita, quindi noi prepariamo uno o due eventi l'anno, certo, e quindi siamo in vasca giorni e giorni per poter poi esprimere. Ma cosa si pensa? Cosa si pensa quando si va avanti e indietro? Leggi il tuo fisico o stai pensando, non dico ai fatti tuoi, ma insomma stai liberando la mente? Ma dipende anche dalla giornata, dipende dal lavoro, dipende sicuramente quando c'è un lavoro da fare alla massima concentrazione, il tuo obiettivo, la tua concentrazione ricade solo sul nuoto, magari c'è un allenamento un pochettino più blando, ti permetti di poter pensare ad altro. Certo, senti, ma che tipo era Michael Phelps? Era un po' matto, un po' strano? Era, No, sì, che tipo è Michael Phelps? No, lui è un ragazzo molto semplice, umile, perché comunque per tutto quello che ha fatto forse dovrebbe essere avere la testa un po' più montata di altre persone che non hanno fatto nulla. Quindi sicuramente uno che ha vinto 18 ore alle Olimpiadi, comunque in camera di chiamata, ride e scherza, ci parli anche tranquillamente. Quella gara lì, lui era vincitore annunciato? Lui lì a Pechino era arrivato per comunque cercare di fare il record di ore olimpici, che erano 7 di spitz e lui voleva farne 8. Quindi sicuramente i 400 misti era la gara più forse più tranquilla, era anche la prima gara che lui vinceva in quell'edizione, perché i 400 misti erano la prima gara. Quindi da lì c'è stata l'apertura sua di seguirsi di vittorie, e era scontato quasi sicuramente che vinceva, perché comunque lui credeva in quello che poteva fare e alla fine ce l'ha fatto. Senti, una domanda che mi sono sempre fatto, no? Quando sta per partire la gara, vi inquadrano a uno, uno si scioglie i muscoli, quell'altro saluta, quell'altro strizza l'occhio. Tu hai delle scaramanzie? Guarda, prima della gara mi piego davanti al blocchetto e guardo l'altra parte della vasca. Guardi... È una cosa che faccio abitualmente, nel senso mi chino sul blocchetto e guardo il muro dall'altra parte. Ah, vedi. E t'ha portato, ognuno ha le sue. Direi che ti ha portato bene. Cioè, ce n'è qualcuno di qualcuno che dice, ma quello veramente fa così? Cioè, ti è capitato di vedere uno che faceva una roba molto strana? In sala di chiamata sì. Beh, non si può dire, sì, si può dire. Rutta pesantemente. Ah, bello! per liberarsi. La prima volta ho preso paura, perché era tipo forse una delle prime sue nazionali, perché lui è americano e è più giovane di me. E faceva la stessa gara, sento un rutto, mi giro e ho detto, che è successo? Bellissimo. Comunque ci si diverte anche lì, si traumatizza. Va bene, mi è piaciuta. Il nome non ce lo puoi dire, no? Tyler Cleary. Va bene, quindi bisogna stargli lontani prima di una gara. Luca, sei stato gentilissimo, grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo per tutto. Buona giornata, un bacione. Ciao. Insomma, è un fenomeno che ha fatto della vittoria la sua normalità. Ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica dopo le Olimpiadi del 2012, però ha partecipato a altre gare. Poi ha avuto problemi con la giustizia americana per avere guidato in stato di ebbrezza. Insomma, a molti campioni a un certo punto succede una cosa ben precisa, che quando smettono la loro attività vogliono un po' riprendersi tutto quello che la vita ha negato loro. Insomma, si parla anche di avventure piccanti e diciamo trasversali, per capirci. Adesso è fidanzato con una ragazza che si chiama Nicole Johnson, Miss California, si dedica alla sua fondazione no profit. Insomma, dopo, quando si spengono le luci, gli alti e bassi si alternano. Mi piacerebbe lavorare di più nella mia fondazione, vedere i bambini più consapevoli, che arrivano a dei traguardi, che prendono le decisioni importanti che influiranno per sempre sulla loro vita, come mangiare più sano. È qualcosa di molto speciale e divertente vedere il loro sorriso. A proposito di mangiare sano, ricordiamo che, spero solo nei tempi della sua attività, Michael Phelps, 1,93 m di altezza per 88 kg di peso, con un'apertura di braccia che sfiorava i 2 metri, bene, aveva una dieta che diventò famosa e prevedeva l'assunzione di 8.000 calorie al giorno, cioè 3 volte tanto rispetto alla media adulta, ma diciamo che l'occasione per smaltire ce l'aveva. Ci sono persone che con la loro volontà hanno saputo reagire magari a un'infanzia complessa per dare il colpo d'ala di cui noi parliamo tutti i giorni, fare cose che hanno lasciato il segno, come ha fatto il grande Michael Phelps. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare i riflettori, cioè il microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure visitate la nostra pagina su radio24.it, e poi ci sono tutti i vari social, compresi i miei. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.